piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Parliamo di pornografia. Credo che solo su Breaking Italy si possa passare dalla fumata bianca a quello che le persone fanno nella loro stanza al buio, ma è interessante ed è uno studio di settore che peraltro mi ha passato uno di voi, grazie Federico, su che cosa gli abitanti delle singole nazioni abbiano preferito cercare a livello di pornografia negli ultimi 6 mesi. Avevamo già parlato di una cosa simile, ma soltanto riferita alle singole persone. Qui ci sono anche le categorie, le ricerche più comuni. In Italia sono molto banali. Il primo è Italian, cosa che non dovrebbe stupire perché più o meno in tutte le nazioni la prima cosa cerca è il nome della nazionalità stessa, quindi i greci preferiscono guardare persone greche, come i tedeschi preferiscono guardare persone tedesche, e così via. Al secondo posto c'è amatoriale. Ma l'interesse si solleva quando ci si sposta negli Stati Uniti, dove invece le ricerche sono un pochino più variegate. Una delle parole più ricercate in assoluto è MILF, che per chi non sapesse di cosa sto parlando, probabilmente è la prima volta che utilizza internet in assoluto. So che è stato lacerante, dilaniante parlare di ora religione, di ora di religione nelle scuole italiane. Oggi parliamo nell'ora di pornografia e sicuramente il dibattito sarà altrettanto acceso. Tutto parte da un esempio oltre Alpe. Il presidente francese Macron ha la fortuna di avere una ministra per le pari opportunità, si chiama Marlène Schiappa o Schiappa, non so bene, io direi Schiappa però alla francese, che è una interessante ministra che è anche scrittrice sotto pseudonimo di alcuni romanzi erotici. Ha osservato la signora Schiappa che la pornografia in realtà mina fortemente alle radici la compattezza dei giovani francesi. Lo sappiamo benissimo anche noi che portiamo lenti con spessi compensazioni di diottria, e quindi ha deciso di fare qualcosa. Visto che i ragazzi sono bersagliati da troppe immagini erotiche che vengono appunto dai siti specializzati in pornografia, avete sentito prima il nerd che spiega le classificazioni e le categorie di YouPorn, è un'enciclopedia vedere le categorie in cui è suddiviso l'erotismo: bianchi, neri, due bianchi, un nero, tre bianchi, un nero, un bianco ce l'ha lungo, un negro ce l'ha corto, un nero ce l'ha corto, il bianco ce l'ha lungo, la mamma, la zia, la nonna, il nipote, la prozia, e gli amici, i postini, tutte le categorie merceologiche possibili e immaginabili, le zucchine, le arance, i pompelmi, i cocomeri, insomma le categorie di YouPorn sono talmente vaste che fanno pensare ai bambini che possa esistere una varietà inimmaginabile di percorsi erotici possibili, quando poi in realtà alla fine sempre la stessa cosa è. Quindi la Marlène Schiappa ha deciso di porre rimedio a questo istituendo l'ora di pornografia anche nelle scuole francesi. Adesso non so esattamente come avverrà, non è che andrà lì una pornostar e spiegare ai ragazzi come si fa, no. Analizzeranno il video porno, analizzeranno il set del video porno, capiranno come è stato fatto, come è stato realizzato, dietro quali artifici ci sono quelle mirabolanti espressioni di superpotere che in realtà poi nella vita reale è molto difficile avere, quali sono i sussidi chimici di fotoritocco, meccanici, vibroelettrici che intervengono per permettere quella falsificazione. Visto che siamo in un momento di fake news, il presidente Macron vuol dimostrare che la pornografia online è una grande fake news di quello che in realtà sarà la sessualità per i ragazzini. Se no, cominciando su quelle basi, su quelle premesse, hanno un obiettivo irraggiungibile. Beh, voi sareste d'accordo di fare la stessa cosa in Italia? Vi garberebbe avere nelle scuole italiane, accanto all'ora di religione, che abbiamo capito che vogliono tutti gli italiani, anche l'ora di pornografia, in cui viene magari un videomaker, un esperto, un montatore, forse quello il termine non è proprio pesato, comunque qualcuno che spiega ai ragazzi che in realtà quella è finzione. Ragazzi, i 7 nani di Biancaneve non esistono, ragazzi, la bella addormentata non esiste, ragazzi, è tutta una metafora per insegnarvi a capire la vita. La stessa cosa, la pornografia online non esiste, è tutta una metafora per spiegarvi che quando sarete un po' più grandicelli un po' vi potrete divertire, ma non mai come si divertono questi in dei rapporti a 51, no, questo non esisterà mai, avrete se no 5 volte nella vita l'occasione di avere una persona per voi. 800 24 00 24, partiamo col sondaggio: sareste d'accordo a istituire un'ora di pornografia anche nelle scuole italiane? Il presidente francese Macron è preoccupato dall'enorme diffusione della pornografia online e dalle conseguenze che questa diffusione ha sulla sessualità della gioventù francese. I professori delle scuole medie in Francia potrebbero in futuro tenere delle lezioni per capire come sono fatti i video pornografici, qual è il limite tra finzione e realtà, perché non possono essere un modello della sessualità o dell'erotismo e quale immagine falsata diano della donna. Ora ci chiediamo se anche in Italia sarebbe auspicabile introdurre nelle scuole dei corsi che, analogamente a quelli francesi, servano ai nostri ragazzi a non subire passivamente i messaggi che la pornografia online trasmette. Chiamateci all'800 24 00 24 e diteci se secondo voi 1. La sfera della sessualità è intimamente privata e la scuola non se ne deve mai occupare. Spetta solo ai genitori e famiglie occuparsi di questi temi. 2. La scuola deve limitarsi a fare divulgazione sessuale limitatamente alla parte medica e della salute. 3. È giusto che a scuola i ragazzi abbiano una piena conoscenza della sessualità, anche nei suoi aspetti affettivi e relazionali. 4. A scuola i ragazzi devono visionare i film porno insieme a registi e attori hard per poterli pienamente decodificare, magari insieme a un sessuologo. 800 24 00 24, mi sembra chiaro il tema. Vediamo di immaginare, visto che non manca lo spirito immaginifico al nostro pubblico, come immaginereste questa ora di pornografia, che non è un'ora scollacciata, anzi praticamente, da come vedo le premesse, è l'ora più disarrapante che possa esistere nella scuola mondiale. Sarà un'ora in cui i ragazzi, alla fine, usciranno da lì, diranno: boh, andiamo a giocare a pallone, andiamo a fare una partita di pallacanestro, quello che non sono riusciti a ottenere i salesiani in secoli attraverso rappresentazioni di inferni pieni di diavoli con i forconi, di bambini smunti che morivano di dissenteria e di consunzione per l'uso improprio del loro organo sessuale, di bambini ciechi, di persone che esauriti 100 colpi rimanevano con il revolver scarico, otterrà Macron con le sue lezioni di sessualità. Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei che ne dice di questa idea? Ma io sono favorevole a quello che dice il ministro francese, perché la pornografia per gli adolescenti o per i bambini soprattutto potrebbe essere un male incredibile che si portano per tutta la vita. Anche perché lei quanti anni ha, Mario? 52. Ecco, ai suoi tempi, la prima immagine pornografica che ha visto in vita sua, attraverso quale supporto l'ha visto? mi ricordo il nome della rivista. Ah, una rivista? Come, cos'era? Sì. Le Ore? Sì. Perfettamente. Lei, che c'era sempre il compagnetto più sveglio che la comperava o la rubava al fratello maggiore. Allora, io che sono più vecchio di lei, le dico, la prima immagine pornografica che ho visto era un pezzetto di carta in bianco e nero strappato che di fronte alla parrocchia di Ferro di Cavallo Perugia girava fra quelli che stanno preparandosi la prima comunione. E c'era un bambino molto... Io non capivo che era, perché una foto talmente fatta male, brutta, in bianco e nero, si danno dei mucchi un po' bianchi, un po' neri, ci vedi, qui sono due che stanno facendo questa cosa. Io non sapevo manco cosa fosse quella cosa. Però quella è la prima cosa pornografica. Mi sembrava strano vedere le chiappe di una persona in questa foto sbiadita, consumata, appiccicaticcia. Era incredibile. E quello è stato il primo supporto. Oggi un bambino clicca qualunque parolaccia possibile e si trova un florilegio totale, quindi non c'è nemmeno possibilità di sorpresa. Quindi almeno tanto lo vedrà comunque, inutile impedire che lo veda, è impossibile. A 4 anni già sa tutto. Tanto vale spiegarglielo. Posso dire un'altra cosa? Credo che capire la pornografia possa portare anche più rispetto tra i sessi, sia i maschi verso le femmine che le femmine verso i maschi. Anche perché il senso fondamentale per cui la Marlène Schiappa, che è il ministro delle pari opportunità, è una giovane donna molto intraprendente, sveglia, e dice: sì, però lì siano soltanto donne totalmente succubi, sembra che non sognano altro di essere sbattute da 50 uomini. Cioè, oppure viceversa, che i maschietti vogliono sbattere una ragazzina in un modo incredibile. Sì, perfetto. Certo, anche perché c'è proprio il filone anche dei simulati stupri. Sì, è una simulazione, ma si vede gente che in un garage entra una ragazza, la prendono entro quattro, la sbattono sulla macchina, praticamente compiono un violento stupro e i ragazzi pensano: beh, se c'è su YouPorn lo puoi fare anche nella vita. Infatti, quindi lo fanno vedere del sesso, del porno, col sorriso sulle labbra, ma non è così. Allora, lei è per il punto 4 del nostro questionario. A scuola i ragazzi devono visionare film porno assieme a registi, attori, hard, per poterli pienamente decodificare, insieme a un sessuologo. Anche alla fine, sì, studiarlo, sì, sarebbe importante. Tanto, vedere l'hanno già visti. C'è un ragazzo in età scolare, ha già visto pornografia, perché ha uno smartphone in mano. E la prima cosa che vai a cercare, come noi lo cercavamo nelle enciclopedie, è cercare le cose zozze, quindi l'ha viste tutte. Tanto vale fargli vedere che non c'è nulla di proibito, visto che c'è quella roba, ha un uso di eccitazione per adulti che vogliono vedere queste cose. Ci sono, debellarla è impossibile, però capire, dice guarda, questa è un'attrice, questo è un attore, stanno simulando un atto, non è così nella realtà, non troverai mai una donna che in realtà la incontrano per strada tre uomini, se la portano a casa e ci fanno quello che vogliono, non esiste questa cosa qua. Grazie, Mario, buongiorno. Ah, Mario, ha parlato Gaetano. Sì, buongiorno, sì. Io chiamo da Bergamo e non posso fare altro che approvare quello che è stato detto dal, diciamo, da quello che è intervenuto prima di me. E in effetti è così, oggi bisogna dare ai ragazzi uno strumento per poter capire meglio quello che vedono sul web. Noi che siamo di una generazione più vecchia, io ho 45 anni, ho anch'io iniziato guardando riviste rubacchiate di qua e di là e sono cresciuto, per assurdo, tra virgolette male, perché vivi la tua sessualità in modo nascosto. Forse vedendola in modo più istruttivo, con un'ora scolastica, visto che poi già oggi volevo segnalare che esiste un'ora a scuola che si chiama affettività, insegnano appunto qual è la differenza tra il voler bene e amare. Eh sì, e ma quindi... questa qua si parla della cosiddetta viande cochon, come dicono, ciccia di porco, qua non è roba di affettività, è roba di... Certo, di attrezzi roba, sguinzagliati ovunque, esatto, è questo. Quindi, esatto, non c'è, potrebbero fare altro che amplificare questa ora, farla diventare un'ora che è dedicata proprio a quello che può avvenire nell'incontro fra persone, perché questo poi è in realtà è un pochino diversa, dice. Allora, la premessa è questa: i ragazzi questa roba già la vedono, quindi è inutile continuare a parlargli delle farfalle, delle api e dell'affettività. Vedono che gli adulti fanno questo tipo di cose, che sono cose che avvengono nel mondo, non è che voglio dire che non avvengono. Però se questo è l'unico loro imprinting dal punto di vista sessuale e nessuno gli dice altro, non pensa che sia quello. E non può essere quello, perché la prima fidanzata che avranno andranno con due o tre amici dicendo facciamo come abbiamo visto nel video. Fagli capire quelle fiction, come la fiction dei vampiri, come la fiction degli zombie, come i mostri spaziali. È la stessa cosa. La pornografia di YouPorn equivale ai mostri spaziali. Benedetta. Pronto, buongiorno. L'ascolto. Allora, io sono d'accordo parzialmente, in questo senso che io dal momento che in Italia siamo anche indietro per quanto riguarda l'educazione sessuale nelle scuole, io eventualmente farei le due cose unite: educazione sessuale, che è molto importante, secondo me arriva prima di quella dell'ora pornografica, ed eventualmente scusi Benedetta, mi perdoni Benedetta, sì, sì, dovrebbe essere così, ma i bambini arrivano a scuola in prima elementare, molto probabilmente hanno già visto della pornografia. Vero? Dovrebbe essere così. La pornografia dovrebbe arrivare nell'età diciamo dello sviluppo, vengono le curiosità e uno comincia a vedere che succede anche qualcos'altro. Ma lì arrivano già condizionati, arrivano, capito? Trova la maestra che gli dice c'è l'ape che va sul fiore e prende il polline. E loro ridono: sì, ma lo fanno in 5, in 6, in 7, in 8, e come lo fanno? Capito? Quello è il problema. Guardi, questo secondo me è un problema che va un pochino più a fondo, nel senso che bisognerebbe proibire ai ragazzini non maggiorenni di accedere a questi siti. Ci sono che è impossibile, però. Genitori che possono farlo. Sì, ci vuole genitori che hanno pazienza, certo, hanno pazienza e li seguono. Esatto, bisogna proibire. Intanto, secondo me, i bambini di età inferiore ai 18 anni, che non sono maggiorenni, ad accedere a questi siti. Ma si rende conto oggi cos'è un sedicenne, però? Come fa a dire un sedicenne? Un cioè, è tecnicamente impossibile proibirlo ai minori di 18 anni, non potrà avvenire mai questo. Il fenomeno, ma c'è, è dilagante. Tanto vale, secondo me, depotenziarlo in quello che può essere l'effetto negativo, spiegandolo, dicendo sì, abbiamo capito che c'è questa roba. È un grande business, è un mercato, deve esistere perché è sempre esistita dalla notte dei tempi. capite che però è un'altra cosa, non fa parte del mondo onirico come fa parte del mondo onirico le favole, le avventure, le illusioni. Il mondo reale è un'altra cosa, perché gli esseri umani sono passibili di rispetto, vanno rispettati, hanno una volontà, non è mai così come vedete nei film. Se andate con l'idea che tutto il mondo funzioni come nei film, rimarrete sempre molto male o farete dei danni anche ad altre persone. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Chiamateci all'800 24 00 24 e diteci se secondo voi 1. La sfera della sessualità è intimamente privata e la scuola non se ne deve mai occupare. Spetta solo ai genitori e famiglie occuparsi di questi temi. 2. La scuola deve limitarsi a fare divulgazione sessuale limitatamente alla parte medica e della salute. 3. È giusto che a scuola i ragazzi abbiano una piena conoscenza della sessualità, anche nei suoi aspetti affettivi e relazionali. 4. A scuola i ragazzi devono visionare i film porno insieme a registi e attori hard per poterli pienamente decodificare, magari insieme a un sessuologo. 800240024, ho partito parlando della proposta della ministra delle pari opportunità Marlène Schiappa, del presidente Macron, di portare la pornografia come disciplina scolastica, ma non tanto per il compiacimento nei confronti della pornografia, ma per spiegarne il meccanismo. Il principio è molto semplice, tanto i ragazzi comunque arrivano a conoscerla per strade loro, tanto vale spiegargli che è fiction, che è paranoia, che è ricostruzione, che è qualcosa che comunque non corrisponde alla realtà. Sono molto stupito che i risultati finora delle domande che abbiamo fatto, del sondaggio che abbiamo posto, mi portano alla visione di un pubblico estremamente aperto. Tutti dicono sì, d'altronde è giusto, non se ne può fare a meno. Non ho visto nessuno che ha alzato gli scudi e ha detto no, di questa cosa non se ne parla nemmeno, è uno schifo. Non è bella la pornografia in sé, non è manco brutta, esiste, c'è. Andrebbe somministrata al tempo giusto, nel momento giusto, con le maniere giuste. Non esiste più possibilità di mediazione, nessuno che apra il rubinetto quando è il momento e lo chiuda quando è il momento, e quindi tanto vale sdrammatizzarla, far vedere di che si tratta. Giovanna, buongiorno. Salve, salve. Sì, no, ma io sono abbastanza d'accordo, perlomeno per quanto mi faccia un pochino ribrezzo la statalizzazione di tutto, però credo che anche i genitori fondamentalmente debbano darsi una svegliata, perché tanto i pupi ci arrivano, quindi è così. Mio nipote a 10 anni è rimasto un pelino sconvolto a casa di un amico e è incappato in un video di sesso di gruppo con oggetti, e poi è entrato a casa e diceva: mamma, ma anch'io devo farlo. Questo succede, ahimè, questo succede, perché noi succede. Ci facciamo due risate sopra, diciamo che vuoi che sia, ma ci ricordiamo no, quando eravamo bambini. Certo, no, lui è rimasto male. Ma certo che a 10 anni rimani male. Guarda sì. A casa, comincia a guardare tutti i soprammobili, dice: ma che ci farà questo la mamma e il papà quando non ci sono io? È logico. Sì, infatti. Quindi non è così irrazionale o irragionevole. Magari i genitori si svegliassero, sarebbe meglio. Però, insomma, comunque... Lo sa, è difficile, difficile parlarne, perché io vedo il tono degli sms, tutti: ah, maiale, sporco, schifoso, interessa solo a te che sei un maiale, ai ragazzini non gli interessa. Che i ragazzini siano contaminati ormai, è logico, perché o sì, si fa una norma, è impossibile proibire lo smartphone al di sotto dei 14 anni, facciamo conto, ma è impossibile. C'è sempre un ragazzino che ce l'ha, che l'apre, che lo porta. E la prima cosa che vanno a cercare, ma è logico che quello, è sempre stato così. Lei non so quanti anni abbia, Giovanna, non glielo chiedo, ma lei quando era bambina andava a cercare le parolacce sul vocabolario. La mia generazione faceva questo. Oddio, io ne ho 47, più onestamente il vocabolario. Lo so, e lei è più giovane. No, sono grande. No, onestamente... Da piccola, dico, quando era piccola, bambina, il suo approccio, qual è stato? Le amiche, anche la sessualità scoperta tramite le amiche, sì, un sacco di cazzate dette. Ok, capito, ma qual è il primo supporto in cui ha letto, visto, immagini, non proprio... Giornali, quotidiani, giornali di mio papà. Cioè giornalini zozzi in casa, suo padre? No, non erano proprio giornalini zozzi, in realtà erano... Sto cercando di ricordare, non riesco a ricordare, però era un periodico. Beh, la sua prima immagine pornografica dove l'ha vista? A che età? con gli amici, penso. Ma grande però, già matura, diciamo. No, beh, 15-16 anni. Però vedi, già un'età, oggi è un'età avanzatissima rispetto ai 10 anni del suo nipote, sì. Capisce? Sì, è un'età in cui... mio nipote è rimasto sconvolto e anche disgustato, perché ovviamente l'età non... Sì. Sì, entrare in un sito specializzato in pornografia... Può essere anche disgustoso un bambino, ma fa decodificare di fronte a cose molto estreme, capito? Che hanno il loro genere di amatori. Ieri, ma per qualcosa come qualche mese ha continuato a perseguitare mia sorella dicendo ma devo farlo anche io, come lo devo fare? Non sto scherzando, no, è ma lo capisco. Veramente così. Ma lo capisco perfettamente. Sì. Anzi, fortunata sua sorella che almeno ha parlato con la mamma, perché se non parla con la mamma sì, si portava dietro questo... E la prima fidanzatina probabilmente si presentava col paralume sotto braccio, non sapendo che altro fare, capito? Quello è il problema. Fabio, buongiorno, grazie. Buongiorno Fabio. Buongiorno Nicoletti. Sì. Senta, io onestamente non sono d'accordo, ma non perché io sia un bacchettone, ma per il semplice motivo che lo trovo un po' assurdo che certi comportamenti che riteniamo comunque da regolamentare siano regolamentati in un modo un po' così. Cioè, come l'esempio della violenza, cioè i corsi di autodifesa delle donne nei confronti, cioè invece che educare gli uomini dobbiamo insegnare alle donne a difendersi. E va bene, questo discorso, va bene. Ecco, lo stesso discorso può essere traslato su questa argomento. Come, in che maniera? No, perché capisco. Ma, cioè, voglio dire, io se voglio vedere una partita di calcio, se non mi abbono, non vedo la partita di calcio. Quindi una cosa a pagamento per adulti, per maggiorenni. Vuoi vederti tutti i porno di questo mondo? Ne ho visti a centinaia. Una volta era così, in rete una volta era a pagamento, era già più difficile. Ma se vogliamo arginare e educare, dobbiamo in qualche modo poi porre dei limiti a questo. Vabbè, insomma, per come ormai la rete troveranno sempre roba gratis. Ormai la rete è immensa, non c'è più niente si possa nascondere. In 30 secondi se lo scaricano da qualunque altra parte. È un po' difficile arginarla con lo strumento informatico, lo strumento tecnico. Comunque sia, se il problema c'è, si viene considerato un problema, e stiamo vedendo che è un problema. Un bambino di 10 anni torna a casa e dice mamma, ho visto questa roba, che devo farla anch'io. È la puntina piccolissima di un enorme iceberg. Chissà i discorsi e soprattutto i film che si fanno in testa ai ragazzini vedendo i film pornografici. Ma non perché la pornografia in sé è chiaro, li vedranno prima o poi, li vedono a 10 anni senza nessuna guida, pensa che quella è la realtà. Quindi forse l'unica maniera per arginare il problema è spiegargli che quella è roba per grandi, fatta in un certo modo, perché è come ho detto prima vedere un film dell'orrore in cui ci sono gli zombie che camminano. Se vede poi tecnicamente è impossibile che un cadavere cammini, perché non starebbe in piedi, eppure camminano. Dice, per la stessa cosa come camminano gli zombie, Rocco Siffredi c'ha un missile stratosferico sempre pronto alla partenza, ma in realtà non sarà così per te. Fabio, allora Fabio ha parlato, Maria Grazia. Ah, buongiorno, sì. Sono io. Allora, niente, io sono favorevolissima. Anche perché io dividerei un attimino la parola pornografia con l'educazione sessuale. Cioè, con me ci sta benissimo l'educazione sessuale a scuola, logicamente partendo da una certa età, per poi sfociare nel discorso pornografico per far vedere quali sono gli eccessi di questo discorso, no? E questo è un ragionamento corretto, Maria Grazia, ma come ho detto prima... Sì. Purtroppo non facciamo in tempo a dirgli prima che non essere fatte le cose, perché hanno loro prima in mano un telefono. Esatto. Infatti io da nonna, quando i miei nipoti vedevo un po' di imbarazzo, chiedevano delle cose, mia figlia da mamma si sentiva imbarazzata, rispondevo io con tutta serenità, pacificamente, perché penso che... Ma che tipo di domande facevano per capire? Legate Legate al... no, facevano delle domande appunto sulla pornografia, perché c'è dappertutto. Che nonna, che ne so, che no, vuol dire doppia questo, penetrazione? Sì, certo, io spiego. Ha spiegato dettagliatamente. Ma ragazza, se tutti i bambini avessero una nonna come lei, non ci sarebbe serenità. Più problema. Non ci sarebbe più problema. So. Questo è il problema. Perché i genitori sono imbarazzati, non risponderanno mai. Ho visto l'imbarazzo di mia figlia. Sua figlia non sapeva come rispondere. No, ma i genitori di solito fanno così, perché guardi, io mi sono sposata a 20 anni e non sapevo che l'uomo avesse i testicoli. quindi capisce che tipo di educazione ho visto io. E poi ci sono cosa persone... le hanno detto? C'ha una specie di carotina, finisce lì. Ma no, non è quello, è che allora vedevo alcune persone che facevano pipì nell'angolo. Ah, così, vedeva la parte sopra, non la parte sotto. Vedevo un pezzettino di pene che sporgeva, ma per me, poi mi giravo dall'altra parte perché vergogna. È stata una sorpresa vedere che poi c'era anche dell'altro. Si andava all'oratorio, era tutto peccato, capisce? La Chiesa ha... si è insinuata in questa cosa col senso di colpa, con senso non lo devi fare, questa cosa, cioè lì sì, ma per fortuna, ma ragazza, mentale. Per fortuna con quel senso di colpa ci siamo divertiti un sacco. Oggi a 10 anni che già vedono il carnescio rinato di tutto il possibile immaginabile, no, poverini, no, secondo me si divertono un po' meno. Si divertono un po' meno. Cioè, lei con la sorpresa che aveva visto quel pezzettino che spuntava, hai capito? Tutta che... la vita, piano, capito? Piano. Quanto ben di Dio. Va bene, grazie, sentiamo fra un istante, fermi tutti. Melog. Allora, sintetizzo io quelle che erano le domande del nostro questionario. Oggi non è tanto un questionario quanto una suddivisione di punti rispetto a un problema, che non è un problema anni 70, come mi scrive un ascoltatore. Negli anni 70 non ci si poteva questo tipo di problemi perché non c'era la rete. Allora, rispetto alla proposta Macron di istituire un insegnamento analitico della pornografia nelle scuole, voi sareste d'accordo questa pratica didattica fosse introdotta anche in Italia? Abbiamo dato dei punti. Uno, il sesso è roba privata, deve rimanere in famiglia, non se ne deve occupare la scuola. Questa è la linea radicale. Se ne parla solo a casa, la scuola insegna altre cose. Oppure la scuola deve limitarsi soltanto all'aspetto sanitario, le cose che fanno male, che fanno bene, attenzione, ma non nell'aspetto proprio propriamente ludico sentimentale, chiamiamolo così, anche se qua è più ludico che sentimentale. Il punto 3, è giusto che i ragazzi abbiano delle lezioni di sessualità, ma legate sempre all'affettuosità, al sentimento, alle relazioni. 4, drastico, sì, è giusto, facciamolo perché non se ne può fare a meno, perché tanto comunque ce l'hanno in mano da quando sono bambini, il telefonino con smartphone con dentro YouPorn. Giuseppe. Buongiorno. Come la pensa? Lei è insegnante, vedo. Sì, sono un insegnante. E cosa ne pensa di questa proposta? Sembra scandalosa, però ascoltando poi le reazioni del pubblico sembra più meno scandalosa di quello che sembra. Mi sembra abbastanza elaborato il concetto, che sarebbe ora che qualcuno almeno spiegasse, come la nonna di 75 anni, certo, ai bambini di che si tratta. Sì, ascoltato, lo scandalo insomma in qualche modo fa sempre bene perché dà a pensare. Tra l'altro io poi insegno religione, quindi posso essere un insegnante anche un po', come dire, incluso in quello che diceva. Sarebbe lei, compatibile, della Giuseppe, necessità dell'insegnamento. Giuseppe, delle poi fa una domanda diretta. Lei se la sentirebbe proprio per una questione concreta, sincera, veramente di educazione apostolato, a dire ai suoi ragazzi: beh, voi queste cose le guardate, adesso vi spiego io esattamente di cosa si tratta. Se la sentirebbe, sarebbe un passo estremo secondo lei? No, un passo estremo no, probabilmente non me la sentirei io nello specifico, perché, come dire, ritengo di non essere molto preparato sull'argomento. Chiaro. Credo che tutti gli insegnanti in qualche modo debbano educare gli studenti alla capacità di desiderare così come di imparare. Io penso, Giuseppe, nello specifico ci vorrebbe personale specializzato, certo, in queste cose. Personale se no, specializzato, però devo ammettere che riguardo ai corsi, anche ad un intervento che è stato fatto prima, sì, da un suo, diciamo, ascoltatore, a scuola, in realtà al liceo, non insegniamo, diciamo, educazione all'affettività. Ci sono dei corsi detti di educazione alla salute che, devo dire, sono molto tecnici e riguardano anche la sessualità, in genere relativamente alle malattie che si possono prendere. Ma le assicuro che i miei studenti, e sulla sessualità e sul bere piuttosto che sul fumare, quella informazione entra da un orecchio e ne esce da un altro. È questo purtroppo il problema. Quindi io non so se la scuola e la sessualità, probabilmente, come diceva Pasolini, ha una funzione pubblica, anche se ammetto che ha una sua dimensione di, non di privatezza, ma di personalità. Quindi bisogna accostarsici probabilmente con una certa così sacralità, mi permetta questo termine. Sì. Però, diciamo, la scuola secondo me non deve diventare strumento di quella che Pasolini avrebbe chiamato una subcultura della sessualità. Però Giuseppe, come ridiamo? È interessante farlo con lei il dibattito, perché lei è, diciamo, anche portatore di un universo di riferimenti, di valori e via dicendo. Però è innegabile, questo è innegabile, che in età piccolissima i bambini già si entrino in contatto con questa realtà, la conoscono. Certo, vuoi perché certo. I genitori trascurano, l'ideale sarebbe che i genitori non gli dessero il telefonino in mano, ma sappiamo che è impossibile, oppure glielo danno e gli danno alcune istruzioni. Io, come la nonna di 75 anni, persona sì, splendida, sì, ha detto, molto intelligente. Glielo spiego io così li destrutturo questa cosa. Esatto, mi rendo... c'è un'opera di decostruzione positiva rispetto ad una famiglia, secondo me, che oggi ha perso un po' la sua funzione educativa, che viene scaricata al 100% sulla scuola, ma che poi scuola che non viene investita di questo ruolo educativo. Lo so anche Giuseppe, però la ricaduta poi di questa disinformazione o errata interpretazione sono reati penali, sono problemi psichiatrici, sono esistenze danneggiate, perché se un bambino pensa che le donne le puoi sbattere sul muro e picchiarle, o pensa che comunque puoi tranquillamente pensare che se vai per strada fermi una persona, questa non vede l'ora di andare a letto con te, può intraprendere delle operazioni sociali sbagliate. E poi il danno è anche fisico, reale, concreto, c'è cioè sofferenza vera, certo, non è soltanto sì, l'anima. Sì, non certo, è d'accordo. Sì. Nel senso che queste cose vengano decostruite, probabilmente sì, ma non attraverso una visione, credo, analitica, perché forse si corre il rischio di banalizzarla ancora di più questa sessualità e di proporla poi, cioè, c'è sempre mediazione. Ma lei è chiaro, Giuseppe, è chiarissimo come la vede lei, figuriamoci, ho pieno rispetto. Stiamo cercando di capire qual è il male minore, ecco, facciamo così, non sarà esatto, mai un rimedio. Esatto. Viviamo in una società in cui la scelta del male minore è già considerata in fondo la scelta migliore. Lele, velocemente, l'ultimo. Allora, mi scusi, allora faccio solo più una battuta. Sì. Macron, lui con la sua educazione sessuale fa legge, mi fa un po' ridere, povero. Le dico il mio pensiero. Fa legge? No, cosa? Non ho capito. Scusi, non ho capito. No, Macron con la sua educazione sessuale... Sembra un po' strano che faccia proposte lui che ha... Perché la compagna anziana del settore? Sì, forse lui cercava MILF o cercherebbe no. MILF, però fa un po' ridere. Però se ne ha battuta, mi fa ridere. Io ho 47 anni, ho due bimbi, non sono d'accordo di demandare a un'altra persona alcune cose che... Cioè, che alcuni insegnamenti le facciano ai miei bimbi o ai miei ragazzi... Ma quando il suo bambino avrà in mano un telefonino, c'era 7, 8, 10 anni e vedrà queste cose, lei darà lei gli strumenti a suo figlio per decodificarle? Io spero di sì, di dargli anche prima del telefonino. Lei vedi Stefano, lei ha un percorso corretto, ma non è che così per tutti, purtroppo. Se tutti ragionassero come lei, arriverebbero a 12 anni, hanno il primo telefono, sanno già di che si tratta, già il papà gli ha spiegato tutto, le vedono con il necessario distacco e il necessario coinvolgimento perché sappiano che esistono, a parte la realtà, è inutile far finta che non esistano queste cose. Esistono, boh, le sperimenterai in parte quando t'andrà, quando vorrai, con persone consenzienti, nel momento giusto, nella maniera giusta, altrimenti non si riesce a capire. Siamo arrivati alla fine, 800240024. Ah, abbiamo Stefano ancora, ecco Stefano. Sì, buongiorno. Sì. Sì, salve. L'ascolto. Io volevo dire che secondo me è un problema, vabbè, come si sono capito, è solo un problema di educazione, perché bisogna sbagliare come abbiamo fatto noi, sapendo di sbagliare, quindi è diverso che sbagliare non sapendo di sbagliare, perché se tu spieghi a un bambino che quello che fai è sbagliato, lui lo fa lo stesso sicuramente. Sì. Come l'abbiamo fatto noi, qui non è un giudizio però di ordine morale, mi scusi Stefano, non è dire sbagliato e giusto, dirgli queste cose qua non sono la realtà, è qualcosa di irreale, queste cose qua sì, in teoria potrebbe capitarti nella vita di farle, ma non è questa la regola. Se tu ti accosterai per la prima volta a una persona con un desiderio affettivo, fisico, erotico, non pensare che la regola è quella di applicare il manuale di YouPorn, ma è altre cose, ci si arriva attraverso altri percorsi. Sono delle regole di vita per farli vivere un po' meglio, se possibile. Tutto qua. Alla prossima.